Sono le 16:08 minuti, questo è un piccolo fuori programma rispetto al palinsesto, allo scorrere del palinsesto di Radio 24. C'è un piccolo problema di blackout, credo, di là. E quindi sono ufficialmente in onda da solo e posso dire quello che voglio, credo, Paolino, giusto? Posso dire proprio tutto quello che voglio, nel senso che sono ancora. Di fatto questo non è ancora il nostro spazio. Allora facciamo così, facciamo come se ci fosse la sigla. Io parto da zero. È un esperimento questo, e quindi tutti quelli che siete all'ascolto sappiate che è una sorta di esperimento alla radio libera. Sono le 16:08. 18 minuti, siamo in diretta, questa è Radio 24, abbiamo un piccolo blackout informatico, elettrico, cos'è? Posso dire informatico, di software. E oggi raccontiamo una storia che, come tutti i giorni, ha a che fare con la vita delle persone, ma soprattutto ha a che fare con il raccontare storie. E quindi voglio leggervi questo piccolo pezzo tratto da un racconto di Flannery O'Connor. C'è chi dice che il racconto sia una delle forme letterarie più difficili. E io mi sono sempre chiesta il perché di questa convinzione, visto che a me pare uno dei modi più spontanei e fondamentali dell'espressione umana. Dopotutto, uno comincia ad ascoltare e a raccontare storie sin da piccolo, senza trovarci nulla di particolarmente complicato. Ho il sospetto che tanti di voi raccontino storie da una vita, eppure eccovi qui, seduti, tutti desiderosi di sapere come si fa. Buongiorno e benvenuti. Sono le 16 e 9 minuti ed è ripartito tutto e siamo qua, siamo in diretta. Questo programma si chiama Voi siete qui, io sono Matteo Caccia e ogni giorno racconto, come vi dicevo, una storia di qualcuno che abbia voglia di condividerla, innanzitutto, visto che condivisione è la parola cardine di questi ultimi anni, soprattutto grazie ai social media, ma soprattutto di chi abbia voglia di scriverla. Una persona normale, uno di noi, una persona che come tutti ha un lavoro, ha da fare, deve studiare o è a casa perché invece il lavoro non ce l'ha, però abbia voglia di prendersi mezz'ora, di mettersi davanti a un computer e scrivere un episodio, scrivere un racconto della sua vita, un avvenimento realmente accaduto, che racconti qualcosa di lui. Oggi è la volta del racconto di Stefano, che più tardi sentiremo e che ci racconterà meglio qualcosa di lui. La sua storia. Parla di amicizia, ma non parla solo di quello, parla soprattutto di generazioni. E non è mai facile parlare di generazioni, intendo dire, non è mai facile guardarla da fuori, una generazione, e cercare di capire quali sono i suoi tratti. Ed è ancora più complicato cercare di capire come si è evoluta una generazione, come è passato il tempo all'interno di quella generazione, come siamo cambiati noi che quella generazione la stiamo vivendo. Prima con Tiziano cercavamo di capire qual è un buon punto di riferimento per capire che siamo cambiati, che la nostra generazione, che il tempo passa, detto banalmente, che la nostra generazione sta scivolando lentamente in una fase che era quella che prima vivevano i nostri genitori o i nostri zii o semplicemente degli amici più grandi. E ci è venuta in mente questa immagine del concerto. A quanti concerti andavate quando eravate più giovani, quando eravate ragazzi? Una settimana? Due? Tiziano diceva: io tutte le sere andavo a un concerto quando ero in università. E adesso, anche se uno non c'ha la famiglia, anche se uno non c'ha i figli, a quanti concerti andate? Non dico al giorno, non dico alla settimana, dico al mese. O in un anno, a 5, a 10 concerti al mese? 349-238-6666. Oggi parliamo di questo, non solo di concerti, parliamo di tutte le cose che fate, che invece quelli della vostra generazione abitualmente non fanno. Sul profilo Facebook del programma, che è Voi siete qui, Radio 24, Massimo ad esempio posta anche una foto che è bellissima, andate a vederla perché racconta moltissimo di che tipo è e di questo argomento. Io vado ancora in vacanza in Vespa, da solo con la tenda, scrive Massimo. A sentir loro, non si capisce bene chi siano questi loro, gli altri, a sentire gli altri sposati, non è roba da fare, è roba da vagabondi che loro non farebbero mai a 50 anni. E poi ancora Valentina scrive: non guardo la TV, ascolto Radio 3, sì, lo so, la concorrenza, dice, però ascolti anche Radio 24 se sei qui, Valentina, e soprattutto non ho in programma di sposarmi. Vorrei capire quanti anni hai, però, tu. E poi ancora Luca, che invece immagino sia giovane: faccio modellismo statico, roba da vecchi, a sentire alcuni amici. 349-238-6666. Vi ripeto, la storia di Stefano parla di generazione e la prende da un punto di vista molto preciso, che è quello dell'amicizia. Che che spesso è una fotografia abbastanza chiara, perché quando ti ritrovi a cena con gli amici ti ricordi di come eri 10 anni prima, di dove andavi in vacanza 10 anni prima, di quello che facevi 10 o 20 anni prima, no? Vi ricordate quando eravamo in montagna a casa di Claudio e facevamo quella roba? Vi ricordate quel viaggio che abbiamo fatto in Marocco? E poi invece magari a 40 anni sei lì e mangi una pizza. Questo è esattamente il caso di Stefano. Questa è la sua storia. 349-238-6666 è il numero per scrivere, e questo è Voi Siete Qui. Non sono mai stato un compagnone. Non sono mai stato un compagnone nel senso stretto del termine. Non certo uno di quelli che vuole essere amico di tutti e di tutti il migliore degli amici. La mia faccia non è su Facebook e per ora non avverto una particolare necessità di mettercela. Insomma, nel corso dei miei 40 anni ho lasciato che i rapporti si creassero e si disfacessero naturalmente, senza forzature, senza ricerche affannose, abbracci vigorosi o addii sconsolati con la mano sulla fronte. Non credo neanche di essere il tipo da "ho pochi amici, ma quelli che ho..." No, non è niente di tutto questo. Ho semplicemente, e credo inconsapevolmente, sperato che il naturale corso delle cose, come un grande filtro, trattenesse tra le sue maglie quelli che sarebbero stati i miei amici e le mie amiche di un'intera vita. Amici giusti, naturalmente difettosi e imperfetti come me. Di mio ci ho messo quanto penso possa bastare: un po' di sana onestà intellettuale, la disponibilità sempre quando richiesta o intuita, discrezione in abbondanza e il compiacimento rassicurante di contare su qualcuno e di contare per qualcuno. L'amicizia è molto importante, però deve essere vissuta con la giusta intensità, non deve ingrigire con gli anni, come i nostri capelli. Oggi, se guardo indietro, scorgo e riconosco le persone, i volti. Ricordo il mare, le nottate, la chitarra, il vino, le mangiate, la malinconia telecomandata, le partite a calcetto, le amiche troppo amiche che di più non si può usare, gli infiniti giri con la macchina, la 125, il militare, chi ti attende al ritorno, chi ti riporta in stazione, lo studio, la vacanza in tenda, telefonarsi, giusto così per sentirsi, consolare ed essere consolati per un fallimento, i concerti di Pierangelo Bertoli, i pretesti per passare del tempo assieme, uno squillo e sono giù da te, ti suono e scendi, rapporti impeccabili, preparativi perfetti, per ritrovarsi tra le mani negli anni a seguire dei rapporti vivi, maturi, che anche i capelli un po' più bianchi meritano. Però le forche caudine del tempo devastano più gli spiriti che i corpi. Molti volti, molte persone sono ancora qui, ma una malcelata malinconia mi coglie nel rivederci insieme. Sempre qui come allora, ma piegati da una stanchezza senza fatica, dal dovere di essere adulti, padri, madri, mariti, mogli, nel senso più spento del termine. Ed eccoci qua, un SMS e ci si vede solo il sabato sera per una pizza. Ed eccoci intorno al solito tavolo a dirci le solite cose, a fare le solite battute. Una moglie si addormenta su una sedia, un marito sbadiglia sul divano perché sai, ho lo stress da rientro. Tu non mangiare troppo che domani si pranza da mamma. Rai 1, mettete su Rai 1, Ballando con le stelle. Oddio, sono le 11, dobbiamo andare. Ciao, alla prossima. Che ci faccio qui? Non mi riconosco in niente, nessuna frase mi appartiene e i gesti mi infastidiscono. E ogni tanto, sperando in qualche attimo di lucidità, provo a ripescare nel fondo degli animi comuni passioni. Tipo, ragazzi, mercoledì sera c'è un bel concerto di Locasciulli, si va? Oppure, grande degustazione di Montepulciano giovedì sera, noi andiamo, voi ci siete? Il problema non credo siano le mie domande, ma le loro risposte. Dunque, c'è grande successo per il finto stupito, interessato ma purtroppo impossibilitato. Ma dai, veramente? Dove? A che ora? Fiducioso in una ritrovata compagnia del mercoledì sera, inondo gli astanti con tutte le informazioni del caso. Ma inesorabile e puntualissimo arriva al dietro front. Peccato, non posso proprio. No, è che il giorno dopo lavoro. Lavori, beh, già, giusto, dimenticavo. Lo dico sempre con uno sguardo tra lo stupito e il comprensivo, perché poi penso, sai com'è, anch'io lavoro. Sì, anch'io fortunatamente lavoro. E quindi non capisco. Anche io, per fortuna, lavoro, ma ancora non voglio negarmi il piacere di un film, o di un vino, di un concerto spericolatamente infrasettimanale, che mi sollevi un po' dalla dignitosissima routine quotidiana, e da quella sempre uguale e un po' meno dignitosa del sabato sera con la sua pizza, il suo SMS di convocazione e i suoi sbadigli. Piace tanto la musica, piace imparare il cibo, quindi piacciono i vini, piace l'arte. Piacciono le belle cose, le cose che tengono impegnato un po' il cervello. Ma non mi rassegno, e intorno a quel tavolo getto esche golose a dei pesci sazi di mangime in sapore. Spunti di discussione privi di qualsiasi edonismo intellettuale. Disperati tentativi di ritrovare animi ricchi, ma non più avidi di partecipazione e condivisione. Sapete, dico, ci è capitato di parlare con un ragazzo africano, ci ha raccontato della sua esperienza durante la raccolta dei pomodori. Il caporalato, roba terribile, ha scritto anche un libro. Silenzio. Piuttosto imbarazzante. Io bramo qualche opinione, una qualsiasi, anche arrogante, anche sfacciatamente discordante dalla mia. Uno straccio di dibattito, niente. Intorno solo sguardi vuoti, senza commenti. Qualche luogo comune sparso tra la mozzarella ormai fredda e la Coca-Cola, come se alle 10 del sabato sera il mondo chiudesse e riaprisse il lunedì mattina alle 8, ma solo per andare a lavoro e guadagnarsi l'agognata stanchezza da giocare come un carico di briscola il successivo sabato sera, per superare indenni una nuova settimana. Io, intanto, mercoledì sera vado al concerto e giovedì mattina in ufficio. Spero che il mio lavoro e la mia famiglia reggano il colpo, che è incosciente. C'è una foto tutti i giorni sul sito di Radio 24, alla nostra pagina, che voi siete qui. Di solito noi chiediamo come foto un ritratto, cioè un autoritratto, un autoscatto chiamiamo, cioè la faccia, la bella faccia di quello che ci ha mandato la storia, di quello che l'ha scritta, che di solito di conseguenza è il protagonista della storia del giorno e quindi di quella puntata. Però Stefano ha deciso di non mandarci la sua faccia, ci ha mandato, come vedete dalla foto sul sito, una chitarra. Una chitarra appoggiata su un piano, su un praticabile, e alle spalle una batteria. Quindi immagino che faccia parte di un gruppo musicale, ma probabilmente Stefano sa dirmi di più. Pronto Stefano? Ciao Matteo, sono Stefano. Benissimo, io sono Matteo, quindi siamo a posto così. Dove ti trovi? Io adesso sono a casa, insomma, sono uscito da lavoro e sono qui. Sei uscito apposta? No, avevo la possibilità di farlo, insomma. Ah, ok, non hai preso un permesso. Assolutamente, di questi tempi non è possibile. Di questi tempi sembra impossibile fare qualsiasi cosa, a giudicare anche dai messaggi che arrivano. Stefano, sì. Che tipo di chitarra è quella nella foto? Quella è una Fender, posso dirlo, una Fender. Beh, certo, una Fender Stratocaster. Non so cosa voglio dire, ma so qual è il nome, quantomeno. Non ho mai capito Fender è il nome della marca e Stratocaster il tipo, giusto? Sì, è il tipo, è una delle chitarre più importanti, insomma, più mitiche, se vogliamo, del rock, quindi. Che hai comprato però, nuova, usata, c'ha una storia particolare? Ha una storia molto particolare perché ha accompagnato la mia crescita negli anni come musicista e come persona. Insomma, musicista è una parola forte, come musicante se vogliamo. Perché tu, oltre al tuo lavoro, tu ci puoi dire di cosa ti occupi grosso modo? Io mi occupo di progettazione industriale, quindi un lavoro molto poco fantasioso e molto poco appassionante se vogliamo. E come però, ci sei finito? Hai fatto studi in merito? O? Sì. Oh, okay. Diciamo, approfondito questa materia. Ok, insomma, l'hai voluto fare, non è che sei arrivato per caso a fare la progettazione industriale. Sì, diciamo che l'ho voluto fare, però, come dire, sarebbe stato bello fare tante cose. Questo, guarda, questo però non bisogna sempre, mai rimpiangere. Sempre nella vita. Bravo Stefano. Invece, io leggendo il tuo racconto, anche adesso che lo raccontavo in diretta, ammetto che un po' mi è venuta una grande malinconia, Stefano. Nel senso che io immagino questi sabati sera, e devo dire, È capitato a tutti, eh? Nel senso che poi soprattutto credo anche che sia capitato a tutti trovarsi un po' nella tua situazione, un po' in quella degli amici. Cioè, a turno probabilmente viene da dire: mazza ragazzi, ma che morchia, dai, risvegliatevi un po'. E a volte invece a turno viene da dire: no, guarda, non c'ho voglia, stasera sono messo così, non c'ho voglia di venire al concerto. Quindi non credo che capiti a tutti solo una roba e a tutti solo un'altra. Credo sia una questione un po' generazionale, un po' capita a giro. Ma tu li prendi ogni tanto, li sarcolli, sti amici? Io Oppure assolutamente, io ci provo in tutti, costantemente. sì, io ci provo in tutti i modi, insomma, anche perché mi lega una grande amicizia, un grande affetto. Però se vogliamo, mi intristisce che gli anni abbiano in qualche modo dettato una separazione degli interessi, capito? Io penso che con la mia età alcune passioni siano rimaste immutate o addirittura cresciute. Non so quello che è successo negli altri, capito? Ho capito, c'è un messaggio che arriva che dice: Matteo, la storia di oggi racconta una semplicissima crisi dei 40 anni. Io non lo so se è così. Tu quanti anni hai precisamente, Stefano? Io ho 42 anni, ma non mi sento in crisi, questo è il problema, capito? No, certo, perché tu hai i concerti. Ma tra l'altro, scusa, vogliamo parlare dei concerti di Mimmo Locasciulli? Come, scusami, non. Mimmo Locasciulli? Sì, ma io sono. Un suo grande fan? Assolutamente, io, cioè, insomma, se tu vedi nella storia si citano dei grandi cantautori, Locasciulli, Bertoli, che sono un po' esemplificativi di una generazione, di alcuni valori e di alcuni entusiasmi, Mi dici capito? il pezzo più famoso di Locasciulli, perché davvero adesso Ma mi. Scusami? intorno a 30 anni. Intorno a 30 anni. Intorno a 30 anni, che fa parte del famoso disco? Intorno a 30 anni. Perfetto, questa era troppo facile. Dimmene un'altra, Stefano. L'ultima Ah, di Locasciulli. senti, ma le ultime si chiamano Sglobal, si chiamano Idra, insomma, sono delle bellissime canzoni, insomma, Vabbè. purtroppo poco conosciute, capito? Vabbè, vogliamo salutare questi amici così che ci hanno questi sabati No, sera così difficili? assolutamente, Salutiamoli. assolutamente. Li vedrò anche questa sera, Ah, benissimo, probabilmente. ma sanno che sei andato in onda? Non sanno niente. Guarda, io ho avuto qualche reticenza perché essendo la situazione molto riconoscibile, Certo. non avevo paura di urtare qualche tipo di sensibilità che d'altronde non voglio urtare, No, chiaro, capito? ognuno fa un po' quello che gli pare, Quindi, diciamo. per Però cui, però. il sarcollone poteva essere questo. Ragazzi, ho mandato una storia che parla di voi a Radio 24. Esattamente. Stefano, in Ma il bocca. podcast. E c'è il podcast, bravo. In bocca al lupo per tutto, grazie mille per la storia. Ciao Crepi, e ti saluto e ti ringrazio. Stefano, ciao, Ciao grazie. Matteo, ciao. A proposito di cose fatte in età, fuori età, bah, che poi non ha senso. No, questa roba è una vaccata, non è vero, non ha senso dire età fuori età, però diciamo fuori dal trend della propria generazione, eccolo qua. Ho fatto il primo tatuaggio e sto pensando di iscrivermi all'università alla veneranda età di 31 anni. Mi dicono che non sono normale, ma per fortuna, guarda, 31 anni per un tatuaggio in realtà non mi sembra nemmeno così assurdo. All'università sembra forse un po' più complicato, però è arrivato anche un altro messaggio di una mamma iscritta fresca fresca all'università, che diceva che, adesso non lo ritrovo, che diceva che all'asilo con le mamme degli altri bambini parlano di pannolini e poi all'università si occupa di appelli. Vado alle presentazioni di libri e alle premiazioni letterarie, ma mi rendo conto che a volte sono di una noia mortale. Ciao Giulia. E poi c'è un messaggio di Matteo di Treviso, che racconta un po' della sua generazione, lui ha 31 anni, e un po', devo dire, dell'idea che si ha, più dell'idea che si ha del pubblico di Radio 24, che non il vero pubblico di Radio 24, perché Matteo scrive: leggo i quotidiani e ascolto Radio 24. Leggere i quotidiani effettivamente è anacronistico, Matteo, nel senso che ormai chi è che non sa, c'è ancora qualcuno che legge i quotidiani di carta? A 60 anni forse sì, però vabbè, insomma, i quotidiani appartengono un po' al grande passato della nostra vita. Invece Radio 24 ha una fascia di età in realtà molto più bassa di quanto si immagini, per cui 31 anni tu sei, secondo me, lì a cavallo, sei giusto a cavallo. Ed eccolo qua, caro, un altro messaggio. Caro Matteo, quella che racconti oggi nella storia è semplicemente la più classica della crisi dei 40 anni. Professor Fabio Fiore. Io ringrazio il professore, ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Hina e soprattutto ringrazio Stefano. Noi lasciamo la parola a Oscar Giannino. Io vi ricordo di raccontare storie e di scaricare il podcast. La storia di oggi era di Stefano e anche lui è un punto rosso su una mappa. vivo a Carpi e la storia di domani è la mia e parla della mia compagna di vita. Questa è la mia storia e io sono qui.